attenzione, Battisio. Oh. E chi è? Buonasera. Buonasera anche a lei. Che fa, che fa? Che sta facendo, eh? Vabbè, che fa? Sono pioggerellina. Non fa nulla, eh. Fa nulla, qui non fa nulla. Grande sole, sta staccando la pietra. Forse darà bassiduia. Ma due, Mari. Cosa? Bruce Nanzura. Ma cosa che ha pigliato? Un pigione ha pigliato. Chi? Un barino canarino, tutto, ma... Ma ha messo. Un canarino tutto malato, ho capito, sì. Boh. Il signor Bacchisio? Non l'hai sentito, no? Stamattina. Stamattina l'ho sentito, prima... Verso mezzogiorno e qualcosa. E vuol dire che stava salendo... Che sta facendo una campagna sicuramente. Oh, ma da te è quello. Ehi. Tutti quanti li intendi. Con questo sì, c'è anche l'altro acceso. Dalla retta. Cosa vuoi sentire? Non ti posso far sentire. No, non mi fa intendere nulla. Non ha giocato ad attaccare a nulla io. Fa intendere. Ah, è facile. Questa è Rauca. Questa è Rauca, si intende, si intende. No, qua c'è lo scanner, l'antenna è tutto collegato. Accendo, ciccio. Andiamo giù intanto. Tu per ciamburo tu ti piace, intendi? No, vabbè, quando non c'è nessuno ti viene ascolto. Tanto la ciambura ce l'hai, ciccio. Ascolta un po' i ciaramelli. Ciaramelli, dove vanno i giochi? I salieri che va niente, non preso. Sì, lo so, che sono loro. Domani sono travagliato. Allora, fino alle 10:20 poi sono stato a fare una commissione. E non sono entrato stamattina. Poi ho messo 2 minuti e poi ho girato, le foto, ciccio. Ho lavorato, sì. Stasera c'è la fognata di Tonio Cano. Ehi, io me ne sono dimenticato. Ho letto sul giornale e invece me ne sono dimenticato da buio. Era già tardi a uscirci io. Ehi, vabbè, poverino, adesso che faccia la sua. Si è mangiata da buio, va? Ehi, vabbè, ormai è andata. La faccia è rifugia nel rodotto. Sì, esatto. Ma Chisio, avanti che vuole entrare con la buonasera, come entrare con la portante? Ho visto una portante, un 37, avanti. Non lo so, no, forse no, mette la portante non entra. Vabbè, quando il sistema già entra, tutto qua. È giornata, ho messo acqua fino a martedì, ho messo acqua, può cambiare da un momento all'altro. No, già per domani ha messo solo un nuvoloso. Vabbè, martedì acqua. Sta tranquillo che no, che non invadi, no, che è passato il giorno di passaggio e boh. Quindi avrà fatto cultura dove... Nuvole con tutti. Diciamo che anche ieri qui non ha fatto nulla, a Sassa è scesa l'aria, era praticamente fatta l'aria, non in campagna nulla. Nuvole con tutti, non c'è nulla da fare. Nuvole con tutti. E chi è che sta chiamando da lontano? Avanti il brecco, buonasera. Avanti il brecco. Attenzione amico, vuoi entrare avanti? Boh, devo andare al brecco, non entra. Boh, avanti. Non è in macchina, magari in zona d'ombra. Attenzione amico. Boh, deve essere in zona d'ombra. Vabbè. Andave. Signor Battisio! Oh, quale sto usando? Quello grande sto usando? No, cosa sto usando? Il presidente. Ah, ok. Va bene, attenzione amico, vuoi entrare? Non è voglia, vuol dire zona d'ombra. Bene. Di Maria? Comunque sento le scariche ancora, E ogni tanto pure qui c'è le scariche, io quando esco stacco tutto, non si sa mai. No, io non stacco nulla io, tanto, no, e no che non va arrivi. Avanti Brecco, buonasera, avanti Brecco. Domanda Brecco, però non entra. Avanti il brecco se ci ascolti. Mari, se vuole entrare entra, se no noi l'abbiamo provato a farla entrare, deve darci un sacco di sapere. Poi lontano. Avanti se ci ascolti. 65 sta arrivando, ma se non sei in macchina, allora il segnale va e viene in macchina. No, io sto con tutto il piede, lo sacco qua, non si sa mai, questi lampi fumi. Ho visto uno, l'ha preso fuoco tutto, l'ha preso fuoco tutto, quindi non si sa mai. Quando sono vicini, hanno la musopra e sono vicini, allora sì. Però quando sono lontani così, io li sento in lontananza adesso. Sì, no, vabbè, ma io se sto lavorando, lascio attaccato, non si sa mai, io non so se sono vicini o lontani, capito? Io la sera, quando chiudo tutto, sta col piede ciccia. E così via. Vabbè. Attenzione, signor Bacchisio, se ci ascolti, mi vedo se non ha atteso marito. Sì, magari sta, la campagna sarà già salita adesso. Magari sta facendo qualcosa. Deve essere. Aspetta un attimino, marito. Sì, vabbè, io sono qua, dai. Attenzione che vuole entrare avanti. Negativo, sono uscito solo importante. Guarda che non sto uscendo, solo il segnale, avanti. Non sto uscendo, Santiago 7, radio 0. Intanto per quello importante, Santiago 7. Sì, mi stavo girando, c'è quasi qua, sicuramente qualche autista che viaggia con il camion grande. A Santiago 9:20, 9:25. Aspetta, come diavolo si chiamava? Oddio. Adesso non è del caso, non mi ricordo non è attivo, cavolo. Sono arrivato alla centro, c'è le 9:20, 9:25. Deve essere qualcuno che doveva imbarcarsi, doveva essere. Stava andando a Olbia, a Porto Torrese. No, ma questo è di furia, che è di furia. Ma si sta pompando, tutto pompare. Avanti chi vuole entrare, sto uscendo solo riportante, solo riportante ancora. Si chiamava Tullio Cavallofazzo. E ogni tanto io quando andavo a Olbia lo incrociavo. È sempre lui, sta viaggiando, sta sempre. Forse che si doveva imbarcare a Olbia. Ma sto io 9:20, 9:25 a manetta, se pompa e cosa male. Sì, lo trovo sempre quando va a coso, a Olbia, a imbarcarsi. Porta il rimorchio e lui poi se ne torna. Lascia il coso lì, il rimorchio giù a Olbia. E poi se ne torna. Ok, avanti che vuole entrare. Sempre importante. Non avevo immaginato, sta puntando a cosa male. 9:20, 9:25 questo qua. E poi faceva con la venti furi, parlando la Sicilia e così via. C'è quello di coso anche. Quello di Catania, mi pare. Che viaggia con il TIR. Lo senti a tutto volume. Avanti, certo che ti ascolto, avanti, buonasera, chi sei? Franco mi hai sentito, Marino da Sassari, in compagnia di Tore lo squalo, avanti Tore, padre Franco. Io ti ascolto, non so se ci ascolti tu. Buonasera comunque da Salvatore. E adesso te lo dico io, Marino da Ottava. Franco, la radio 5 perfetta, il segnale 5 e mezzo, avanti. Io sono piccolino Franco, piccolo come un pulcino, Marino, avanti fra. A me sta arrivando 5 di segnale, la radio è buona. Benissimo Franco, ciao, ben sentito, al prossimo, avanti po. Ok, ciao Franco, ben sentito, alle prossime. Maria, aspetta un attimino. Io sono qua, io vai. Ora mi sono subito, io mi sto aspettando un attimino. Adesso, avanti. Marino Bacchisio. Oh, signor Bacchisio. Signor Tore, buonasera. Buonasera anche a lì. Caspita, a questo si entra. Impegnato. Così che... prima il dovere e dopo il piacere, o no? Infatti, prima il piacere e dopo il dovere. c'era Marino sino adesso, ma già me ne non mi intendo. Oh, di che sta là, il buono cura zappa. No, io ma parava, mi si è sentato un attimino, va a controllare un vorro. E andare. Attento, signor Marino, se sei sotto là, bene con la zappa, metti da parte la zappa, io, a dici che lo fai. Vedrà se si è allontanato allora. Andare. Senta, signor Bacchisio. Signor Bacchisio, non si è ancora a della macchina, diretta al garaggio. Boh. Ho già mandato un bel voce, ma non ha riposo. Che va parato, non so, lasciamolo fare, se non fa peggio. Infatti è così. Se vuole entrare, entrani. La porta già l'abbiamo aperta, lasciamo aperta, perché basta bussare oppure entrare come vogliono loro. Aspetta, ma sento un attimino, Giomari, che devo controllare. Fai. Giomari. Eccoci qua. Mi stavo controllando le patate. Allora, patate a insalata, salone. No, al forno. Al forno, sì, buone. Belle croccate fatte, lei. Io lo credo. vabbè, ma niente, che cosa gli diverso. Ma... ho fatto la maglia bassa asciutta oggi, non dico niente. Da voi me la fa rendere con questi granchi maturi, no? Ma dici maturi, mi. Da giusto che mi sono zecciato veramente, sto. Io me li ho presi l'altro giorno, me li ho presi. Quei granchi, ma giubilato, la calma ha giubilato che dei granchi minori. Me la giubate i buddhidi. Rugli e rugli sono diventati. I banchi minori non mi piacciono a me. Pratici maturi. A che canto li pacchi e vai in quattro. Catta finero, roba le magnacchi, sono pieni, capito? Però le zampe la sono riuscita a schicciarle, vivo la mazzetta, vivo. Che se vivo lo schiaccianucci, fa brilli. Oh, che l'ha fatta con lo schiaccianucci, so? I piedi specialmente me. Catta, non sono riuscita a schicciarle, vivo, tutta è. La giusto, vivo la mazzetta, vivo. E infatti, viaggia ancora due piedi. Salute, se cazzo fossi un figlio Marcello, me ne schiccio con il sicuro, ma se la chi io schiaccia l'occhi, non ce la fai, anche solo perché si grossi, capito? Ho capito. Vabbè, piano piano, con tutta la vuota, bisogna schicciarli. Io li avevo presi quando per Ferragosto li avevo presi. Preso un paio. Cazzo, vedete se li hanno schicciati conmigo. Buoni sono buoni, tragitto, sono buonissimi. E stanotte mi è arrivato un po' di bassa asciutta e che si pezzi mi sono rimasti. Gli do con la chiesa e stanotte, poi mi dico cazzo, mi stai un buon stanotte. Fai. Andai così, anda. E allora, mi ricaggio la bassa. Di burro mi da voi stare chiccio io che senti poi quella tavola hai un bacchetto per la fede la vacca mi ricchiccio io che con i coccianucci non ho visto con il ciso a che torcio sa che sono maturo capito per cui non ve la giovata chicciare abbiamo un bacchetto ma è forza infatti ci vuole un martello ci vuole per farli proprio di quella maniera, ma che quelli sono duri sono. Io avevo un bel vuota bisognavi. Ma che? Un guacciarino a bordo di capi da dretto, catta! Mi sono contenti che poi ho saurito, capito? E con un giuetto dico che è un bombo, ma era da un bel che non ne mangiavo, comunque. La giù fatta a mesi, per cui abbiamo mangiato bene, va. Infatti. Aspetta, chiamiamo a signor Battisio. Signor Battisio, mo di che andiamo a farato? Chi ci è da farato, sì. Per cui mi sembra che Sanucci non entra, però strano che entra Saugatti. Vediamo un po' se entra o no. Insomma, così, capito, gatto? Allora, tu facciati il forno. Ma carne burbe, no? Io? Ehi! Ehi, due cose, due fette di pancetta ho messo nel forno. Va bene. Poi mi sono fatto una mangiata di figa. Ti dico, ma mangiata è, chiatta. Insomma, la prima fase a macarrone ispirata, buono. Andiamo. E allora, cazzo, ma ciò si dica niente, non rimango, Solo a passare su e basta. Forse un grappolo d'uva, va, a te. Se me l'auguri ho mangiato tutti. Va a posto, vado domani a mangiare. Tagliando un volone. Acqua messo domani mattina. Devo salire per sentire. Cazzo, io diglielo che aspetti finché lo scendo. bisogna vedere. Ambasce di nuovo a posto di pomeriggio a Cagliari di mangiare un romapesci. Vabbè, se piove non messo. Alle poste devo andare pure, ma a farmi la luce di campagna e di casa. Eventualmente se piove alle poste ci andiamo, va. Così che la spesa la faremo dopo domani. Vabbè, dai Giovanni, io ti lascio perché mi devo controllare la cosa e tutto qua. Dai, ci sentiamo domani se si è fatto bene. Ok, ciao Giovanni. Ok, buona passata e buona pancetta stanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte Giovanni. ma io la nata che ho mamma da stare. Thank you.